Buonasera a tutti, grazie di essere venuti così numerosi. Dopo una settimana dedicata alle scienze, ritorniamo al nostro grande amore che è la storia moderna e contemporanea, e questa sera scopriremo un aspetto nuovo che non abbiamo mai trattato, ma che è, diciamo, anche alla ribalta in quest'ultimo periodo. Abbiamo visto infatti Eric Gobetti la settimana scorsa su Rai 5, il canale dedicato ai documentari di storia, ed è qui con noi questa sera, lo ringrazio moltissimo. E stasera tra l'altro c'è un'altra puntata, mi diceva, alle ore 21, sì. Quindi terminato qui lo possiamo vedere anche Rai Storia, sì. Sulla Storia, sì. Canale 54. Ecco, canale 54. Sì. Canale 54. Sì, Rai Storia. Ecco, ringrazio anche Vania Tappetti, che è un nostro concittadino, ci dà una mano in numerose occasioni. Sono entrambi storici che si occupano di storia moderna e contemporanea, in particolare della storia dei Balcani. E questa biblioteca sta dedicando una parte anche della propria documentazione alla storia, ne parlavamo anche prima, una parte che non deve solo puntare sulla divulgazione, ma anche proprio fornire degli strumenti di approfondimento per non solo appassionati, ma anche per studiosi. Io vi ringrazio di essere qui con noi per la presentazione di questo nuovo libro. Ho scoperto appunto, e adesso colmeremo le nostre lacune, ci sono altri due titoli molto accattivanti della produzione di Eric Gobetti, che è Nema Problema, che è un diario di viaggio, ma poi anche Dittatore per caso, e l'altro che qui non vedo, Occupazione allegra. Benissimo, allora vi ringrazio di essere con noi, ringrazio i nostri ospiti, porto il saluto anche dell'assessore Tommasini e vi cedo la parola. Dunque, buonasera a tutti quanti, rinnovo il benvenuto a titolo personale, oltre che ovviamente da parte della biblioteca provinciale. Mi dispiace se mi presentate in stampella, non l'ho fatto apposta, vi giuro. Cercheremo comunque di portare a termine questa cosa che è programmata da un po' di tempo e vuole avere la caratteristica dell'informazione, non è una lezione da dare a nessuno, è semplicemente una luce che si è aperta grazie agli studi approfonditi del signore al mio fianco su una parte della storia particolarmente oscura, in un ambito a sua volta molto complicato, che è il famoso ambito dei Balcani, il groviglio balcanico cosiddetto. È una metafora spesso utilizzata per un sacco di altre situazioni. E non a caso si parla di un territorio con una presenza di nazionalità di vario tipo e di sottonazionalità o di categorie, se ne possono trovare mille, volendo andare a isolare paesi, vallate e quant'altro, e non solo da 50 anni o da 100 o da 200, ma è una storia di frammentazione di popoli che si perde da partire dal Medioevo prima, insomma. E al mio fianco appunto c'è Eric Gobetti, che oltre a aver scritto i titoli di cui ha fatto cenno la direttrice Trevisan, abbiamo il piacere di vedere da due settimane in diretta, dico bene, cioè la trasmissione va in diretta lunedì sera su Rai Storia, con repliche che si possono vedere sul canale televisivo nel pomeriggio. Quella di oggi è andata. Erano le 5, però sono tutte puntate registrate che si possono trovare su internet, sul sito di Rai Storia, e quindi se l'avete scoperto adesso vi invito ad andare a approfondire questa cosa, perché è molto particolare e parla di questo ambito, anche se non, nello specifico non di questo libro, più o meno, insomma, abbiamo un'altra visione ancora su questo panorama, per l'appunto molto complicato. Senza prendere troppo alla larga, la Jugoslavia è uno Stato che nasce dopo la Prima Guerra Mondiale. Nasce perché prima si dichiarano indipendenti nel dicembre, inizio di dicembre del 18, si dichiarano, cioè subito dopo la guerra, poche settimane dalla fine della guerra, si dichiarano indipendenti il corpo politico e gli intellettuali di Slovenia, Croazia e il Voivodato, che è quella terra di mezzo tra la Serbia e l'Ungheria, la terra alta, insomma, della parte serba dei Balcani, o la maggior presenza serba dei Balcani, e abbiamo una dichiarazione di Stato libero che però non viene riconosciuta internazionalmente. Queste tre entità principali chiedono riconoscimento e supporto al Regno di Serbia, che non faceva parte dell'impero asburgico prima della prima guerra mondiale, anzi probabilmente ha contribuito un poco a farla partire, la credine asburgico serba. Lo Stato serbo, il Regno di Serbia, decide di supportare la cosa e si trasforma in regno di serbi, croati e sloveni. La dicitura va in ordine di importanza secondo chi aveva il potere più o meno in mano. Dura una decina d'anni, perché nel 29 questo regno diventa praticamente tramite un colpo di Stato diventa un regno di Jugoslavia, cioè degli slavi del sud, con preponderanza politica serba nelle decisioni del corpo politico e comunque con una volontà di rappresentazione globale di tutti gli slavi del sud, che vuol dire dagli sloveni, quindi sloveni, croati, bosniaci, montenegrini, serbi, macedoni, me ne sfugge qualcuno di più piccolo, perso, però più o meno sono più o meno tutti. Volendo approfondire non si finisce mai, perché volendo isolare anche semplicemente il caso croato nelle proprie varie entità, tendenze politiche, tendenze nazionaliste piuttosto che tendenze jugoslaviste, ci sono bibliografie enormi. Della Bosnia non ne parliamo, la Bosnia a sua volta ha studi approfonditi di varissimo tipo, anche antecedenti, anche di molto antecedenti alla prima guerra mondiale, la Serbia altrettanto, e così più o meno vale per tutti i paesi balcanici. In particolare distinguiamo nella difficoltà di creare un'unione balcanica tre forti variabili, almeno una variabile più forte delle altre, che è la religione. Il serbo e il croato sono praticamente la stessa lingua, più o meno. Il serbo si scrive in cirillico, il croato si scrive in occidentale, cosiddetto. Sono però entità, stati con fedi diverse, sono ortodossi in Serbia e sono cristiani, cattolici in Croazia. In Bosnia, come sappiamo, c'è una forte presenza musulmana, i primi musulmani in assoluto nello scacchiere occidentale, perché se voi pensate alla Bosnia che diventa parte ufficiale dell'impero asburgico nel 1878, non prestissimo per quelle che sono le date storiche, però insomma nel 1878 di musulmani amministrati da qualsiasi paese europeo non se ne parlava. Loro sono i primi, e l'Austria li amministra 20 anni in occupazione per poi nel 1908 passare all'amministrazione ufficiale, istituire scuole e quant'altro e cercare di gestire queste diversità. Tutte queste diversità più o meno vengono a saltare dopo la prima guerra mondiale per effervescenza, perché la prima guerra mondiale è il trionfo della, chiamiamola, etica nazionale o nazionalista nei confronti dell'etica internazionalista. I grandi imperi asburgico, russo e ottomano, i grandi imperi multinazionali, cioè quelli dove la popolazione è formata non da semplicemente un'etnia, la chiameremo oggi, ma da svariate entità, saltano. Fondamentalmente quello che fa più rumore nel saltare l'impero asburgico con tanto di vicenda sottilolese e quant'altro, e quello che succede in territorio jugoslavo dopo lo scioglimento della dei sette secoli di storia asburgica è molto particolare, lascia molte frizioni. Sappiamo ovviamente che c'è una fortissima presenza italiana già dai tempi di Venezia, della Repubblica Veneziana. Gli italiani praticamente abitano su tutto l'Adriatico, da questa e dall'altra parte. La costa è italiana, l'entroterra sempre meno, più si va a sud, meno striscia di entroterra la popolazione italiana occupa, insomma. Fondamentalmente è una cosa che si ritrova anche oggi, grosso modo, sulla costa italiana e dalmata. Andate e trovate tranquillamente persone che parlano in dialetto veneto, in veneziano, grosso modo, anche aiutate dal turismo probabilmente, ma insomma, nell'entroterra si fa un pochino più di fatica. L'Italia a un certo punto si trova interessata alla questione della questione adriatica cosiddetta, è una questione che si perde nell'Ottocento o addirittura anche prima con Venezia. Una volta fatta l'Italia la questione di riuscire a espandere la propria influenza al di là dell'Adriatico diventa di enorme importanza, soprattutto per alcune parti politiche. Popolazione da liberare ce n'è, e ci sono anche gli atti clamorosi, ricordiamo insomma D'Annunzio su tutti quanti per dirne uno, e ci sono da far convivere realtà che hanno convissuto in relativa pace per secoli sotto gli Asburgo, con ovvie eccezioni. Di colpo si crea una situazione in cui ognuno vuole il proprio posto in base più o meno alla lingua che parla. E in questa situazione, arriviamo presto insomma alla Seconda Guerra Mondiale, con un asse che sappiamo qual è, alleato di fascisti e nazionalsocialisti, che si ritrovano a combattere insieme. E quello che succede dal 41, momento in cui la Jugoslavia passa da una situazione di stallo, perché la Jugoslavia ha tentato di giocare la carta neutralità, neutralista, però pressioni estere da entrambe le parti hanno creato lo sviluppo che c'è stato subito dopo. Io anticipo semplicemente che l'Italia investe un sesto dell'intero suo esercito sul fronte balcanico, il doppio delle persone che investirà nella campagna d'Africa, per dire, o comunque un contingente veramente intenso, e in un territorio che assieme ai nazisti, con aree geografiche ben definite, va gestito e amministrato in tempo di guerra, con una situazione che chiamare vivace è dire poco. Il resto lo facciamo dire a chi ha scritto il libro. Grazie Vania, e grazie a voi soprattutto di essere qua, benvenuti. Ma io partirei da una constatazione, anche riagganciandomi a quello che diceva Vania proprio adesso, e cioè il fatto che l'argomento di cui stiamo parlando stasera è un argomento sostanzialmente sconosciuto alla maggior parte degli italiani, ovvero l'occupazione italiana in Jugoslavia, che è il tema del mio libro, durante la Seconda Guerra Mondiale, è un avvenimento storico sostanzialmente sconosciuto, cioè la maggior parte degli italiani non sanno nemmeno che sia accaduta questa cosa. È più diffusa la percezione che siano stati i jugoslavi a invadere l'Italia rispetto alla questione delle foibe, di cui si parla costantemente in televisione, mentre pochi, ben pochi, sanno che invece sono stati gli italiani a invadere la Jugoslavia nell'aprile del 41. Ecco, questa constatazione secondo me paradossale per il fatto che giustamente diceva Vagna adesso, cioè che l'Italia impiega durante la Seconda Guerra Mondiale la maggior parte delle sue risorse militari, politiche e diplomatiche proprio in questi territori. Quindi quei territori che all'epoca risultavano i principali territori di interesse dello Stato italiano, ora sono completamente dimenticati. Quell'impegno straordinario che l'Italia ha messo nell'occupare militarmente, nel come dire, cioè creare un sistema di alleanze sul territorio, anche negli anni precedenti, negli anni 20 e 30, nel creare un sistema di alleanze politiche e ideologiche, diciamo, sul territorio jugoslavo, ecco, tutto questo impegno non viene ricordato, viene dimenticato. Si ricorda la campagna di Russia, si ricorda la campagna di Libia, dove appunto c'erano qualche decina di migliaia di soldati, in Jugoslavia c'erano 300.000. In tutti i Balcani l'Italia impiega metà del suo esercito di terra, metà del regio esercito è impiegato nei Balcani durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è impiegato a far cosa? A fare guerra contro i partigiani. Questo è probabilmente il principale motivo per cui ci siamo dimenticati questa esperienza, perché ovviamente non è un'esperienza di cui vantarsi. Nel dopoguerra, come dire, l'immagine autoassolutoria che si è creata della guerra, dell'esperienza italiana nella Seconda Guerra Mondiale, è quella dell'esperienza partigiana, senz'altro un'esperienza straordinaria, unica, senz'altro un'esperienza da ricordare, ma è un frammento di quello che è stata l'esperienza della guerra italiana, in particolare della guerra fascista. La guerra fascista è stata soprattutto una guerra di occupazione ed è stata soprattutto una guerra contro i partigiani. Questo per dire che diciamo, per partire, far partire il ragionamento sul appunto l'esperienza dell'occupazione italiana in Jugoslavia, che è un'esperienza centrale nell'Italia dell'epoca, nella guerra fascista, ed è appunto un'esperienza che comincia nell'aprile del 41, quando i tedeschi decidono sostanzialmente di invadere la Jugoslavia per portare aiuto agli italiani che sono impegnati in Grecia, nella campagna di Grecia, che non ha avuto successo, come senz'altro sapete. E fin dai primi passi, fin dai primi giorni di guerra in Jugoslavia, il rapporto tra italiani e tedeschi diventa evidente. Cioè la guerra contro la Jugoslavia, che dura 15 giorni, 3 settimane al massimo, è una guerra che di fatto combattono e vincono esclusivamente i tedeschi. Gli italiani non muovono un soldato, avanzano quando di fatto l'esercito jugoslavo è già completamente sbandato, hanno in tutto 30 morti ufficialmente, quindi è veramente una campagna di guerra che non esiste. Ciononostante viene come dire, propagandata in maniera anche eccessiva, anche ridicola per certi aspetti, per gli stessi contemporanei. Perché? Perché proprio quel territorio, cioè il territorio a est dell'Adriatico, sono il principale obiettivo strategico dell'Italia fascista, e forse anche prima, cioè come giustamente dicevi tu, la questione adriatica è precedente. Quelli sono i principali obiettivi strategici dell'Italia in generale, dell'Italia unita, e quindi aver raggiunto finalmente quell'obiettivo è ovviamente l'elemento è ovviamente sfruttato dalla propaganda al massimo livello, anche perché quello è in quel momento e rimane poi per tutto il resto della guerra l'unico vero obiettivo conquistato dagli italiani nel corso della guerra. Cioè, se pensiamo a tutti gli altri teatri di guerra, l'Italia perde la Libia, in Russia non fa che ritirarsi, l'Etiopia, l'impero africano viene perso, tra l'altro negli stessi giorni, cioè la resa sull'Ambalagi è dell'aprile del 41, quindi negli stessi giorni in cui il duca Medio d'Aosta si arrende sull'Ambalagi, gli italiani conquistano il loro spazio vitale, paragonabile a quello tedesco, no? Quando i tedeschi parlavano di Polonia, gli italiani parlavano di Balcani, di fatto di Dalmazia, poco più. Infatti la scelta che fanno i vertici fascisti è fin da subito una scelta, diciamo così, rinunciataria rispetto a questi obiettivi propagandati, perché alla fine l'Italia annette una parte minima di Dalmazia, allarga vagamente i confini a nord, occupando qualche territorio intorno a Fiume, e poi annette una parte di Slovenia che non ha nessuna ragione storica, culturale, nemmeno strategica di essere annessa all'Italia. L'unica ragione che gli storici hanno dato a questa scelta, cioè l'annettere la cosiddetta provincia di Lubiana, la parte meridionale di Slovenia, e che nel frattempo i tedeschi hanno annesso la parte settentrionale, quindi per avere una sorta di cuscinetto, di spazio di controllo rispetto all'invadenza germanica. Quindi i tedeschi fin da subito dimostrano una superiorità netta sul territorio militare, ma in realtà anche diplomatica, politica, su tutti i livelli. Dal punto di vista militare, la cosa che a me ha colpito tantissimo è scoprire che quando, diciamo alla fine del 41, inizio del 42, gli italiani schierano su questo territorio, che territorio diciamo occupato militarmente dagli italiani, annesso e occupato, rappresenta circa un terzo del territorio jugoslavo dell'epoca, ecco, su questo territorio gli italiani schierano 300.000 soldati. Contemporaneamente i tedeschi, che hanno occupato i due terzi del territorio restante, in parte alcune zone della Jugoslavia sono state annesse a Bulgaria, Ungheria, eccetera, quindi non è esattamente due terzi, però diciamo a più di metà della restante Jugoslavia, con le principali città, Belgrado, Zagabria, i principali centri industriali, eccetera, ecco, su questo territorio i tedeschi schierano 30.000 uomini, cioè 10 volte di meno, e ovviamente riescono a occupare il territorio molto meglio degli italiani. Cosa succede? Sarò brevissimo, non entro nei dettagli, però senz'altro sapete che scoppia una guerra partigiana molto violenta e molto anche efficace sul territorio jugoslavo nella Seconda Guerra Mondiale. Quella resistenza guidata dal Partito Comunista e da Tito, che è l'unico movimento di resistenza che riesce a liberare l'intero paese da solo, sostanzialmente. Certo, con l'intervento sovietico nel 1944 nella liberazione di Belgrado, ma di fatto il movimento partigiano, che poi diventerà un vero e proprio esercito di liberazione, è l'unico caso di resistenza in tutta Europa che riesce a liberarsi, a liberare il paese da sola. Si può discutere finché si vuole appunto sugli appoggi avuti dall'Unione Sovietica, dagli alleati, il contesto internazionale che ha favorito questo successo, però il successo è in ogni caso straordinario, ed è straordinario fin da subito, nel senso che l'occupazione italiana dura, come senz'altro sapete, fino all'8 settembre, perché poi con l'8 settembre l'armistizio, la situazione si evolve, e di questo parla la trasmissione che tutti quanti voi vedrete stasera alle 21.15. E detto questo, ne sono certo, detto questo, in quel breve periodo, che in fondo sono 2 anni e mezzo, il movimento partigiano, che inizialmente conta qualche centinaio di aderenti, cioè il Partito Comunista Jugoslavo nel 1941, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, è il partito comunista più piccolo d'Europa, è un partito comunista ininfluente. L'unico grande vantaggio che ha, anzi sono due grandi vantaggi che ha, uno è l'esperienza della clandestinità, cioè il Partito Comunista è sempre stato clandestino in Jugoslavia, sempre stato fuori legge, per cui hanno una straordinaria abitudine a muoversi in situazioni di occupazione, di regime poliziesco, diciamo così, e quindi riescono a organizzarsi nonostante la presenza degli eserciti occupatori. L'altro elemento è che è l'unico partito diffuso a livello nazionale, cioè diffuso su tutto il territorio jugoslavo, e qui non entro nel merito della questione nazionale, che è straordinariamente complicata, però Vania ha già accennato a questo elemento. E peraltro siamo in un territorio, diciamo così, multietnico, multinazionale, per cui sapete meglio di me quanto sia difficile una convivenza in un territorio di questo tipo, ma quanto sia anche possibile. Io sottolineo sempre che l'esperienza jugoslava, secondo me, non va vista come un'esperienza destinata a fallire fin dal principio, perché le differenze erano straordinariamente grandi, come di solito viene presentata. Secondo me viene presentata così, col senno di poi, cioè è facile dirlo adesso, dopo il conflitto degli anni 90, che doveva andare così. Io credo che storicamente invece lo spazio jugoslavo in generale, non dico lo Stato jugoslavo, ma proprio lo spazio jugoslavo insegna il proprio il contrario, che è una straordinaria differenza, appunto, più che altro direi religiosa, ma comunque anche di tipo etnico-nazionale, ha permesso una convivenza, una tolleranza incredibile per secoli, con momenti di tensione, di violenza senz'altro, ma diciamo l'elemento che più colpisce almeno a me è proprio la straordinaria convivenza tra queste popolazioni, insomma. Scusate, chiudo la parentesi. Ecco, in questo contesto così complesso e in questo contesto di resistenza molto, molto forte, molto efficace contro gli invasori, gli italiani scelgono una strategia che segue due binari sostanzialmente. Dico gli italiani per semplificare, nel mio libro viene diciamo approfonditamente spiegato il fatto che ci sono diversi poteri che intervengono sul territorio a scegliere, decidere le politiche, diciamo le strategie da adottare. Così come tutti i regimi, come tutti gli stati, come tutti i regimi, anche i regimi totalitari, l'Italia è formata da tanti poteri, cioè ci sono tanti poteri che diciamo concorrono nelle scelte politiche. E così nel caso jugoslavo in particolare intervengono gli interessi, diciamo così, del Ministero degli Esteri, che è quello che ha fatto anche la politica diciamo appunto di ha stretto alleanze già negli anni precedenti, gli interessi del Regio Esercito, cioè di chi fisicamente si trova sul territorio ad avere a che fare con la resistenza, gli interessi della monarchia, della corona, che ha un interesse soprattutto in Montenegro, perché la regina Elena, la moglie di Vittorio Emanuele III, è montenegrina, è figlia del re, dell'ultimo re, unico anche re montenegrino, e dunque ha interesse in questo ambito, ma non solo, perché poi riuscirà anche a far nominare, solo nominare, perché non diventerà mai re, un Savoia sul trono croato. Dicevo, gli italiani scelgono una doppia strategia, che è quella da una parte di fortemente repressiva, cioè una repressione straordinariamente violenta rivolta principalmente contro le popolazioni civili, che sono considerate in qualche modo conniventi e responsabili delle azioni partigiane, non riuscendo di fatto quasi mai a raggiungere nei boschi, nelle montagne i partigiani, a combatterli sul terreno, a sconfiggerli in quasi nessuna battaglia, comprese le battaglie campali. Ci sono anche battaglie con decine di migliaia di uomini in Jugoslavia, in particolare nel 1943, e gli italiani ne escono sempre sconfitti per una serie di ragioni di vario tipo, direi sia di tattica militare che diciamo di debolezza psicologica, che io appunto sottolineo nel volume, ma ecco, non riuscendo sostanzialmente a sconfiggerli sul terreno, colpiscono le popolazioni civili. Di fatto è una strategia di terrorismo contro le popolazioni civili, ed è lo stesso tipo di strategia che adottano i tedeschi in Italia dal 43 in poi. Potrei entrare nei dettagli, ma preferisco evitarlo, però insomma si tratta di cattura di ostaggi, soprattutto familiari di partigiani, ma non solo, fucilazioni di civili quando per rappresaglia principalmente, costituzione di campi di internamento che, ripeto sempre, non sono campi di sterminio, ma sono campi che raccolgono prevalentemente popolazioni civili, quindi anziani, donne e bambini, e che raccolgono in totale circa 100.000 persone, quindi sono un numero sterminato, sono decine e decine di campi diffusi tra Jugoslavia, Italia, Albania, e dove la mortalità è molto alta per questioni, appunto, non sono campi di sterminio, ma per questioni proprio di diffusione di malattie, di cibo scadente o quasi nullo, di condizioni di vita di fatto impossibili. Ecco, a fianco di questa strategia repressiva viene adottata invece una strategia di tipo diciamo collaborativo, cioè l'idea è quella di creare un sistema di alleanze che con entità politico-militari presenti sul territorio che possano appoggiare gli italiani. Qui entra in gioco la questione delle diverse nazionalità. Appunto, è difficile, complesso parlarne, io ne parlo diffusamente nel libro, credo che alla fine, nonostante la grande complessità della regione di cui mi occupo, credo che sia abbastanza chiaro alla fine quali sono le scelte, le posizioni adottate. Diciamo che l'Italia comunque sostanzialmente cambia strategia da questo punto di vista nel corso dei mesi. Questo è l'elemento più interessante da notare, cioè l'Italia arriva, in particolare il Ministero degli Esteri, come vi dicevo, già dagli anni 20 e 30 ha stabilito una strategia di infiltrazione, diciamo, in Jugoslavia, di appoggio a diversi movimenti politici di tipo nazionale, appunto, e in particolare appoggia da una parte il movimento Ustascia, cioè l'estremismo nazionalista croato, e dall'altra il nazionalismo albanese, e quindi nel caso jugoslavo in particolare in Kosovo. Albanese perché ovviamente l'Italia ha già occupato l'Albania, come sapete, dal 39, per cui l'Albania fa parte già dell'impero italiano, e quindi l'occasione di allargare lo spazio direttamente controllato dagli italiani attraverso appunto l'occupazione del Kosovo e l'alleanza con le elite politiche kosovare. Quindi di fatto immediatamente dopo l'occupazione militare si creano due grandi realtà amministrative, diciamo, che sono la Grande Albania da una parte e la Grande Croazia dall'altra. Questa Grande Croazia, che appunto è governata dagli Ustascia di Ante Pavelic, nazionalisti croati che hanno come principale obiettivo politico in quel contesto l'eliminazione della popolazione serba dal territorio che controllano, che peraltro, essendo grande rispetto alla Croazia attuale, comprende anche la Bosnia Erzegovina, e quindi fate conto che circa il 30% della popolazione dell'epoca dello Stato croato era rappresentata da serbi, quindi eliminare il 30% della popolazione non è una pratica semplice. Viene portata avanti con molta abilità, circa 500.000 persone vengono sterminate in questo periodo. Una cosa che sottolineo sempre è che certo queste cifre sono straordinariamente, sono terrificanti, come dire, tra l'altro gli Ustascia creano l'unico campo di sterminio in Europa, sterminio anche per gli ebrei, tra l'altro ebrei, rom e serbi, presente sul territorio europeo, non controllato direttamente dai nazisti, agli Jasenovac, è l'unico caso d'Europa. E ecco, voglio dire, questo tipo di eventi certo dimostrano uno straordinario odio accumulato in queste regioni da queste popolazioni, ma dimostrano anche che questo odio non avrebbe potuto scatenarsi prima se non ci fosse stata una distruzione dello Stato jugoslavo da parte degli occupanti, e secondo, se gli occupanti stessi non avessero favorito l'instaurazione di questi regimi evidentemente molto estremisti. Gli Ustascia rappresentavano una parte molto minoritaria della popolazione croata. La maggior parte degli stessi croati sono terrorizzati dall'esistenza degli Ustascia, sono assolutamente contrari allo Stato Ustascia, non raggiunge mai un vero consenso di massa lo Stato Ustascia, perché è uno Stato molto estremista e in cui ben poca parte della popolazione si riconosce. Ovviamente l'idea di sterminare la maggior parte, il 30% della popolazione perché serba, non dimostra che i croati odiano i serbi, dimostra che gli Ustascia erano degli estremisti matti che volevano ammazzare la gente, semplificando moltissimo, naturalmente, mi capirete il tono. La strategia, dicevo, nel corso dei mesi cambia per una serie di ragioni che adesso è difficile argomentare brevemente. Però sostanzialmente diciamo si crea un problema di alleanza principalmente tra italiani e croati. Cioè il ragionamento è questo, che l'alleanza stabilita da regime fascista col regime Ustascia è un'alleanza dal punto di vista ideologico funziona, perché sono due, perché diciamo gli Ustascia si ispirano al modello fascista, e quindi anzi vengono in qualche modo, gli Ustascia vengono addirittura creati in Italia sotto il regime fascista, perché Pavelic, il capo degli Ustascia, è in Italia negli anni 30 e in Italia crea il movimento Ustascia, che peraltro è inizialmente un movimento terrorista, cioè mette le bombe sui treni, insomma, in Jugoslavia questo fa. questa alleanza però è naturale da un punto di vista nazionale, cioè gli italiani hanno, come dicevo prima, un interesse di espansione in questi territori fin dall'epoca liberale, quindi è un interesse non ideologico, un interesse nazionale, cioè i nazionalisti italiani ritengono che l'Italia debba espandersi verso est e quindi ovviamente su territori che gli stessi croati rivendicano, gli stessi croati rivendicano anche l'Istria che già da molti anni è italiana, per cui c'è un contrasto evidente tra due estremisti nazionalisti che sono confinanti e che rivendicano gli stessi territori. A questo punto questa tensione cresce nel giro di pochi mesi e porta soprattutto le autorità militari, ma poi in realtà, come cerco di spiegare nel libro, c'è un accordo anche con le autorità diplomatiche, con lo stesso Mussolini, porta comunque inizialmente le autorità militari a scegliere di stabilire un'alleanza con i nazionalisti serbi. Quindi è un capovolgimento dell'alleanza, cioè improvvisamente gli italiani scelgono di allearsi con, non più con i croati ma con i serbi. E quindi mentre l'alleanza con i croati ufficialmente rimane, persiste anche negli anni successivi, però in realtà si crea questo accordo che da un punto di vista nazionale è molto più logico, perché gli italiani erano, c'è una lunga tradizione di alleanze, diciamo, italo-serba, proprio in funzione anticroata peraltro. È un'alleanza, diciamo, che risale ai tempi del Risorgimento, per capirsi, e ovviamente non ci sono contrasti territoriali con i serbi, gli italiani e i serbi non rivendicano nessun territorio comune, per cui non c'è nessuno di questi problemi e per cui appunto si crea questo accordo con chi sono i serbi in questo contesto? I serbi erano quelli che principalmente governavano la Jugoslavia, come giustamente hai raccontato prima, tra le due guerre, cioè dopo, in particolare dopo il 29, il colpo di stato del re serbo che governa la Jugoslavia in quegli anni. Con il conflitto, la disgregazione dello Stato, perdono tutto il loro potere, si creano queste bande paramilitari, cosiddetti cetnici, che sono in realtà abbastanza efficaci, sono diffuse su tutto il territorio, perché appunto la popolazione serba è molto diffusa in tutta la Jugoslavia, e sono a capo di un signore che si chiama Draža Mihajlović. Scusate, questi nomi complessi sono difficili da ricordare, però ecco, cito solo Mihajlović perché è il personaggio cardine di tutta questa vicenda, cioè Mihajlović è il comandante di tutte queste bande paramilitari serbe che sono attive sul territorio jugoslavo e sono presenti anche nella zona occupata dagli italiani, in Montenegro in particolare, ma anche in Bosnia, in Croazia, in alcune zone della Croazia. Gli italiani stringono accordi con queste bande, di fatto stabiliscono un'alleanza militare che dura fino al 43, dura per un anno e mezzo circa, in maniera molto efficace, per combattere insieme contro i partigiani peraltro. Nel frattempo i cetnici nazionalisti serbi compiono strage a loro volta contro le popolazioni croate e musulmane nelle zone dove sono presenti anche gli italiani, che assistono a queste stragi così come hanno assistito alle stragi commesse da Giusta, cioè contro i serbi. E l'elemento paradossale è che appunto si crea questa alleanza militare vera e propria con il movimento cetnico, che è guidato da questo Draža Mihajlović, che nel frattempo è stato nominato ministro della guerra del governo jugoslavo, che è in esilio a Londra. Ora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che il governo jugoslavo, che è ancora ufficialmente in guerra contro l'asse, quindi contro l'Italia, ha un ministro della guerra, cioè il capo dell'esercito, di fatto, che è alleato con gli italiani. Alleati del nemico. Scusate, per ora chiudo qua e ovviamente lancio il dibattito, sono qua per rispondere alle vostre domande. Grazie. Prego. Vorrei essere maggiormente illuminato sulla questione dell'entrata in guerra dell'Italia contro la Jugoslavia. Il 20 marzo 41 la Jugoslavia firma il tripartito. Nella notte tra il 26 e il 27 di marzo avviene il colpo di Stato. Volevo sapere chi erano le forze che hanno portato a questo cambiamento di rotta del regno di Jugoslavia. sono altre domande ne raccogliamo. No, ma preferisco rispondere volta. Una che non posso? Sì, scusami, sì. Perché cercherò di essere breve, però preferisco. Ma dunque, allora, prima di risponderle, mi scusi, faccio una premessa. Allora, è vero che... Scusa che forse è spento. Forse. È senza batteria, direi. Proviamo a parlare più vicino. Sentite? Sì. Ma si sente lo stesso, io ho la voce stentoria, vabbè, parlo senza. Ah, per la registrazione. Beh, intanto cambiate le pile mentre. Senza pila. Vabbè. Parlo forte. No, allora, innanzitutto appunto una premessa. È vero che la guerra in Jugoslavia comincia nel 41, però è anche vero che l'Italia ha dei piani di invasione della Jugoslavia da moltissimi anni, fin dai tardi anni 20, e soprattutto che l'Italia ha intenzione di invadere la Jugoslavia nel 40. Cioè, quando l'Italia invade la Grecia, in realtà è un ripiego, perché l'Italia vuole invadere la Jugoslavia, giustamente dal suo punto di vista, perché il suo spazio vitale, il suo obiettivo strategico non è la Grecia, è la Jugoslavia. Cioè, sono i Balcani immediatamente confinanti con Fiume, con l'Istria. Per cui, perché non lo fa? Perché la Germania nazista dice, in particolare Hitler, ma questo sono storie, insomma, sono documenti noti, Hitler dice a Mussolini, non se ne parla neanche, la Jugoslavia è un alleato fondamentale, è una pedina, deve rimanere neutrale perché ci dà risorse, non andiamoci a impelagare in quella zona, li lasciamo perdere. E quindi Mussolini ripiega sulla Grecia. Ora, quindi poi quello che avviene dopo è un seguito di questa vicenda precedente. Poi, cosa succede? Che effettivamente, l'esercito tedesco dovendo invadere la Grecia per risolvere il problema che ha creato l'Italia, chiede ai paesi confinanti alla Grecia il permesso di passare con le sue truppe. Allora, la Bulgaria e trovano, come dire, un escamotage nel far firmare a tutti questi paesi confinanti il patto tripartito, che questo patto originariamente vedeva firmatare Italia, Germania e Giappone, ma che poi in seguito appunto tutti i paesi balcanici filo asse di fatto firmano. E la stessa Jugoslavia lo firma. Poi effettivamente avviene questo colpo di Stato che, come giustamente lei accennava, è un colpo di Stato militare di fatto anti-tedesco e dove l'influenza dei servizi segreti inglesi è evidente, ormai nota, insomma, ci sono diversi libri sia di testimonianza che di ricerca storica che hanno dimostrato un'infiltrazione dei servizi segreti inglesi. Detto questo, come dire, il grande entusiasmo di massa che accoglie questo colpo di Stato dimostra che la gran parte della popolazione jugoslava, sicuramente la gran parte della popolazione serba, non si sentiva filo tedesca e non approvava questa scelta politica della leadership jugoslava in quel momento. Spero di aver risposto. Prego. Senta, sì, oltre che fare qualche domanda, a proposito delle verità nascoste, no? Le cose che si scoprono sempre dopo, non dimentichiamo l'Africa, gli italiani, brava gente, il famoso Ambaraban, no? la famosa catena dove furono uccisi i partigiani. Lui sicuramente conoscerà lo storico Dominoni, qualche anno fa, proprio scoperto nella catena dell'Ambaraban tutti quei partigiani uccisi in Etiopia. Non dimentichiamo Cefalonia. Bisogna forse ringraziare Pirani con l'articolo nella costa del 99 che finalmente solleva un'altra volta il tema, quindi il tema di Cefalonia, di quei poveri ragazzi ammazzati. Ecco, io vorrei però, scusi, proiettarmi diciamo già nella stessa epoca e poi anche nel dopoguerra. Allora, due domande. Tutto quello che abbiamo combinato in quelle terre può essere un effetto e una causa delle foibe? Seconda domanda, ovviamente da parte mia non giustifico quello che è accaduto nelle foibe, non vorrei essere, a mio parere è un effetto, però non giustifico, non vorrei essere assolutamente frainteso. Seconda domanda, ho l'impressione che per tanti anni questioni di politica estera, soprattutto i rapporti con Tito e con la Jugoslavia, non hanno fatto sollevare queste novità nascoste. Cioè, gli storici, insomma, per tanti anni hanno preferito nascondere queste vicende degli italiani di brava gente, perché c'era Tito che aveva, insomma, una posizione, tra virgolette, molto indipendente rispetto all'impero dell'Unione Sovietica. Guardi, è la stessa cosa che è successo, loro lo sanno, a Cefalonia, si è scoperto qualche decennio fa, tra un carteggio tra Martino, l'allora ministro degli esteri italiani, che beh, stiamo zitti perché dobbiamo essere alleati con la Germania occidentale, non, altrimenti rompiamo questa alleanza con la Germania occidentale. Ecco, lei condivide questa impostazione, cioè che alcune volte come dire, le verità nascoste hanno come sottofondo quel brutto termine chiamata ragione di Stato? Scusi, deve stare un po' lungo. Sì, condivido in linea di massimo questa affermazione. Invece no, per le questioni che sollevava, dunque, allora, sulla questione delle foibe, su cui non mi dilungherei perché diciamo è decisamente al di fuori dell'argomento del libro, però insomma la rispondo ovviamente nel merito. Io non direi che c'è un rapporto di causa-effetto, sinceramente, mi sembra un po' riduttivo. Le foibe, secondo me, vanno in quel, cioè le foibe, insomma, la questione dell'esodo dall'Istria nel dopoguerra e delle violenze commesse sia dopo l'8 settembre che poi alla fine della guerra in quei territori, che comunemente definiamo foibe, ecco, quegli eventi lì, secondo me, vanno inquadrati in un contesto molto più ampio, sia nel contesto della fine della guerra, delle rese dei conti, che in realtà è diffuso in tutta Europa in situazioni macroscopiche rispetto alla realtà tutto sommato minima delle foibe dell'area est del confine orientale italiano, e dall'altra parte in un contesto temporale più ampio, cioè lì c'è un conflitto nazionale tra italiani e slavi di lunghissima durata, almeno due secoli, e che quindi ridurre in quella vicenda lì è riduttivo. Poi quello che forse si può dire è che senz'altro la guerra, la seconda guerra mondiale in particolare, che è una guerra così straordinariamente brutale, cioè che come dire, acutizza le tensioni già esistenti e rende possibile, come dire, certe violenze che magari non sarebbero state possibili in un contesto differente, ecco. Quindi, come dire, la diffusione generalizzata di violenza, anche violenza rivolta contro i civili, anzi soprattutto direi violenza rivolta contro i civili, rende possibile quello che è successo. Spero di aver più o meno risposto a questa questione. Invece, per la questione della ragione di Stato, allora io direi è stato già molto ben studiato, ad esempio in quel libro là, Italiani senza onore, di Costantino Di Sante, come la mancata Norimberga italiana cosiddetta, cioè la decisione di non fare processi ai presunti criminali di guerra italiani alla fine della seconda guerra mondiale, è una scelta che viene fatta proprio per la questione che diceva lei, cioè dell'alleanza che immediatamente dopo la guerra si instaura tra Italia e Germania con la mediazione americana, naturalmente, per cui vicendevolmente non, allora gli italiani non fanno processi ai criminali tedeschi e al tempo stesso anche i criminali italiani non devono essere puniti, e quindi tutto un sistema di scambio di favori, diciamo così. Poi in quel contesto specifico in realtà gli jugoslavi stavano dall'altra parte, diciamo fino al 48 erano strettamente alleati con l'Unione Sovietica, infatti fino al 48 un minimo di possibilità di pretendere ce l'hanno. Dopo il 48 in realtà, mancando gli alleanze internazionali forti, perdono ogni speranza di poter giudicare i criminali di guerra italiani. Un elemento che però mi piace sottolineare è che questo immaginario, questo stereotipo dell'italiano brava gente, così pervicace, così diffuso in Italia, così presente nella mente di tutti noi anche attraverso il cinema, Mediterraneo, il mandolino di Capitan Corelli, ci sono una serie di lo stesso italiano in brava gente che dà il nome a questa definizione. Ecco, no, non è solo italiano, cioè questo è interessante. Il mandolino di Capitan Corelli è un film americano, non a caso, è uno stereotipo internazionale ed è uno stereotipo anche balcanico, cioè gli stessi occupati greci e jugoslavi in particolare hanno rilanciato per certi versi questo immaginario, questo stereotipo del buon italiano. L'occupazione allegra, che è il titolo del mio libro precedente su queste stesse vicende, diciamo più specifico su alcune, ma insomma comunque parla di temi analoghi, il titolo del libro è un'espressione utilizzata dalla storiografia jugoslava per definire l'occupazione italiana, che veniva definita così in maniera sprezzante in realtà, cioè era allegra perché era un'occupazione ridicola, era un'occupazione da buffoni che non sapevano combattere, che non, cioè quindi è dispregiativo, diciamo così, in quell'ottica. Però rimane il fatto che è molto diffusa la percezione degli italiani appunto imbelli, ma anche in fondo brave persone, contadini come noi, eccetera. Le ragioni per cui si è diventata questa idea, nonostante il fatto che gli italiani abbiano invece commesso innumerevoli crimini in quei territori, è molto complessa e direi che ha a che fare in parte con il fatto che l'occupazione italiana è tutto sommato breve, termina con l'8 settembre e dopo l'8 settembre ci sono diverse migliaia di italiani che combattono nelle file della resistenza jugoslava, il tema della trasmissione di stasera che tutti quanti guarderete, e questo ovviamente viene molto utilizzato dalla propaganda jugoslava anche dopo la guerra, per dire, ecco, guarda, la nostra era una guerra internazionalista, gli italiani stavano con noi, quando finalmente si sono potuti liberare dal fascismo si sono schierati dalla nostra parte. Si tratta di 20.000 soldati sui 300.000 che dicevo prima, quindi è una percentuale minima, però è un fatto. E in parte direi c'è un elemento di diciamo raffronto con altre realtà, cioè il tedesco non solo in Jugoslavia, come dicevo, la scelta repressiva italiana è molto simile a quella adottata dai tedeschi in Italia. Fatto sta che però i tedeschi nei Balcani adottano una scelta repressiva molto più violenta. Io faccio l'esempio, come esempio numerico che è facile da ricordare, ma in realtà non è con i numeri che si fa la storia, ma insomma per capirsi, i tedeschi adottano il sistema delle quote, forse sapete, anche in Italia, no? Quando cadeva un soldato tedesco per mano partigiana venivano fucilati 10 italiani. Ecco, nei Balcani vengono fucilati 100. Per cui ci sono stragi di migliaia di persone in Serbia sotto l'occupazione tedesca. Ovviamente queste stragi sono più efferate e numericamente le vittime sono maggiori rispetto alle stragi commesse dagli italiani. E non solo, ma io direi che l'aspetto principale non è tanto il fatto che i tedeschi fossero stati più violenti, che è un fatto, ma non è quello l'elemento simbolico su cui fa leva la propaganda jugoslava nel dopoguerra. In realtà è il fatto che i tedeschi erano dei nemici veri, non so come dire, cioè a livello anche di immaginario. Dire che hai combattuto contro i tedeschi e li hai sconfitti è una cosa di cui vantarsi. Dire che hai combattuto contro gli italiani e li hai sconfitti, vabbè, cioè, sono capaci tutti. Non so, era una roba che non dava. La cosa è paradossale, leggendo anche proprio la storiografia, cioè non sto parlando di cose di divulgazione, proprio libri di storia. È impressionante scoprire che, parlo di libri di storia jugoslavi negli anni 60, 70, 80 anche, è impressionante scoprire che questa alleanza tra italiani e cecnici, che è un'alleanza straordinariamente evidente, non so come dire, in tutte le sue forme, ci sono migliaia e migliaia di documenti in cui si firmano queste alleanze, si combattono insieme, insomma è ovvio. La storiografia jugoslava magari ti porta un documento di una volta che i cecchi si sono alleati con i tedeschi per dire ecco erano cattivi, si alleavano con i tedeschi, degli italiani neanche ne parlano, cioè hanno scritto centinaia di libri sull'occupazione tedesca e sull'occupazione italiana ci sono due libri, cioè è come se non ci fossero gli italiani nell'immaginario jugoslavo, non contano niente. E io direi che è principalmente per questa ragione. E alla fine appunto l'elemento di condanna dei crimini alla fine è passato in secondo piano, nel senso che va bene, non importa, perché comunque costruiamo un immaginario diverso basato sul fatto che gli italiani in fondo sono stati meglio degli altri, quindi finisce lì. Prego. Volevo solo puntualizzare una cosa sulla questione dell'attacco alla Grecia da parte dell'Italia. L'Italia ha attaccato la Grecia perché la Grecia aveva dato agli inglesi delle basi navali e aveva dato ospitalità a grandi unità inglesi in Grecia. E quindi l'Italia ha attaccato la Grecia proprio per questo, per evitare che poi gli inglesi controllassero anche l'Adriatico e il Mediterraneo. In bocco. Questo era una delle cause principali. Grazie. Grazie. Prego, c'è la signora. Allora io parlo forte. Così vi distriamo. È complicato. Io ricordo assieme a lei... la parola d'ordine dell'entrata in guerra dell'Italia contro la Grecia. Da un balcone qualcuno disse: spezzeremo le reni della Grecia. Non ci siamo riusciti neanche a arrivare. Abbiamo chiesto ai cugini nazisti che ci soccorressero e allora la Germania chiese il permesso di passare e venne a darci una mano per occupare la Grecia. Il secondo tempo. Una delle cose che volevo ricordare. E ho avuto rapporti dopo la liberazione, andavo in Croazia con i bambini e incontravo dei compagni jugoslavi e io andavo nei campi e trovavo il ritratto di Tito anche nel cesso, lo chiamavo, nel gabinetto, e io mi scandalizzavo con i compagni jugoslavi a proposito della convivenza per il progresso e l'unità possibile fra religioni e le etnie diverse, e mi dicevano: zitto, finché sta lì quel ritratto siamo tutti in cammino, c'è un'unica strada, quando non ci sarà più lui dovremo pensare a qualche altra cosa. Lo sapevano già cosa succedeva. E un'altra cosa, la prima volta che sono andato in Croazia e sono andato a Arg, sono venuti i compagni jugoslavi e mi hanno portato a vedere i resti di un grande campo di concentramento che conteneva 12.000 persone, dove mi hanno detto anche il numero dei morti, ma non lo ricordo perché non lo voglio ricordare, e era un campo di concentramento fatto dagli italiani, mettendo all'interno del campo di concentramento di Ar popolazione jugoslava. Per quello che riguarda la partecipazione di soldati italiani fra le bande partigiane jugoslave, già prima dell'8 settembre alcuni avevano disertato dall'esercito italiano per andare a venire, perché si erano spaventati dal tipo di repressione, che mi sembra che fosse il generale Messe che operava da quelle parti. Le repressioni del generale di Messe e degli italiani sono rimasti assieme a tanti altri dentro in un armadio diplomaticamente rivolto verso il muro, e l'abbiamo potuto far riaprire unicamente poco tempo fa, e allora in quell'occasione abbiamo processato anche un crudele aguzzino, Michael Schäfer, che stava nel campo di concentramento. Così è successo. Noi siamo stati costretti a non procedere contro criminali nazisti perché avremmo dovuto processare i criminali nostri che avevano operato in Jugoslavia. È abbastanza semplice, terribilmente semplice. E un'altra cosa, per quello che riguarda la sua trasmissione di stasera, non arriverà più a modificarla, ma io vorrei che dentro nella trasmissione di stasera che riguarda anche i partigiani in Jugoslavia, il nome di uno di un mio amico caro, è bolzanino, abitava in via Novacella, adesso sta a Fossoli, si chiama Costantino Marzari. Allora Costantino Marzari, che era a bordo della nave Colombo, l'8 settembre percorre tutto l'Adriatico per arrivare a Brindisi e si rifiuta di essere passato in rivista dal re che l'aveva preceduto nella fuga. E allora lo sbarcano. Allora lui, assieme ad uno di Brescia, raggiunse a piedi Gravina di Puglia. Qui vi era un campo di prigionieri jugoslavi che si erano organizzati per tornare a combattere i nazisti. Per tornare... Di dove sei? Sono di Rovigo. Ah, sei di Rovigno. Arruolato nella Premorska Brigada. In diversi italiani a bordo della vedetta inglese risalimmo l'Adriatico sino a Lissa. In più di 100 italiani formammo il battaglione Gramsci con la nostra bandiera italiana e la stella rossa al centro al posto dello scudo sabaudo. Comandante era un ex caporale di Gallarate, Marsagalli Renato, e Ivan Rakic era il commissario. La prego di ricordarlo quando farà la sua intervista. La prossima. No, su Arbe volevo... Leggo anch'io a sto punto, leggiamo tutti. No, su Arbe volevo anche far notare che appunto mentre la gente, ripeto, prevalentemente donne e bambini morivano come mosche, gli italiani mandano delle missioni esplorative, cioè mandano qualcuno a vedere insomma come stanno, cosa succede, perché muoiono. E va tra gli altri il monsignor Ivo Bottacci, cappellano militare della seconda armata. La seconda armata era l'armata che comandava in Jugoslavia, era al comando di Roatta, però non di Mestre. Roatta. E il monsignor Bottacci ha il coraggio di dire che ad Arbe c'è tutto quanto necessario alla vita moderna, tanto che parecchi internati hanno dichiarato di non voler più ritornare nei luoghi di origine, ma di rimanere con gli italiani, non essendosi mai trovati così bene. È una cosa, io quando ho trovato questo documento non ci potevo credere. E in un altro in un periodo leggermente successivo, il generale Gambara, che all'epoca comandava l'undicesimo corpo d'armata, che era quello da cui dipendeva il campo, scrive: campo di concentramento non significa campo di ingrassamento, individuo malato uguale individuo che sta tranquillo. Questa era, diciamo, l'idea che animava gli alti comandi italiani in questo contesto. Domande? Abbiamo ancora tempo per qualche domanda, se ce n'è, altrimenti passo io a farne un paio. Vai. Se posso, se mi viene concesso, perché ovviamente c'è un po' di curiosità anche da parte di chi ha letto questo libro. Io ho avuto il piacere di averlo in mano un mesetto fa, quando abbiamo saputo di fare questa trasmissione, e ho cominciato a leggere un libro che è ricco di storia, è ricco di dati, è ricco di esempi. Contemporaneamente è un libro che si legge senza doversi mettere su una scrivania e studiarlo, intendo. È un libro che scivola per bene. La meraviglia di trovarsi di fronte a documenti tipo il documento Bottacci, chiamiamolo così, questo di chi visita il campo e sostiene che il campo di concentramento e sostiene che la gente si è contenta di starci, evidenzia quanto lavoro di propaganda ci sia in tutto quello che è l'ambito di presentazione delle notizie, chiamiamolo al fronte, anche se non è un fronte, è una cosa talmente ampia. Lo scenario balcanico, che non è un fronte dove la gente si spara ogni giorno, c'è della convivenza bellica, chiamiamola così, no? E la mia curiosità da storico è come si riesce a giudicare la notizia estremizzando palesemente vera da quella palesemente falsa. Cioè, al di là del documento ufficiale, che vale perché è un documento ufficiale, l'ha emesso il ministero piuttosto che il comando, piuttosto che è un atto, ma una dichiarazione di un diario piuttosto che di un giornalista, piuttosto che quali strumenti hai utilizzato per riuscire a discernere tra la propaganda e il dato? Anche perché, come dire, domanda alla seconda, riuscire a isolare il fattore propaganda è un dato storico non da poco, perché si capisce al di là della macchietta italiana per la gente o della metafora utilizzata, che non è utilizzata solo nei Balcani, appunto caratterizza l'italiano, ma da presto, l'italiano combattente da presto, e in generale la trasformazione della notizia in un dato che venga utile a chi la utilizza è caratteristica fondamentale della gestione della storia. Quindi questa è la domanda principale, insomma. No, grazie. Forse è un po' specialistica, però cerco di rispondere in una maniera comprensibile, no? Guarda, in realtà, ecco, per esempio, questo caso che ho citato prima è curioso, perché poi si ritrova in diversi libri, diciamo così, autogiustificativi degli italiani, che proprio citano questo documento per dire: ma guarda, lo diceva anche il Monsignore, non è un prete qualunque, quindi sarà stato vero, e quindi come dire, lo danno per scontato. Peccato che però su Arbe ci sono migliaia e migliaia di documenti, quindi diciamo il lavoro dello storico, come dico sempre, è un po' il lavoro dell'investigatore privato o anche non privato, del poliziotto di fatto, cioè vai e cerchi tutte le prove possibili per capire cosa è realmente successo. E nel caso di Arbe ci sono davvero migliaia di documenti che descrivono una realtà ben diversa, oltre alle cifre, anche solo le cifre dei morti quotidianamente in quel campo, non possono far pensare che si stesse così bene. Ci sono le testimonianze delle persone che ci sono stati, quindi ovviamente incrociando tutta una serie di elementi è ovvio che non, anche il contrario non sarebbe giusto, cioè non è che io prendo la testimonianza di uno che mi dice: ah, come si stava male, ecco si stava male, e no, non basta, devi anche andare a vedere poi delle altre fonti, possibilmente delle fonti di chi li faceva stare male, perché certo c'è questo, ma poi ci sono anche quelli che dicono sì qua certo sì muoiono tutti i giorni centinaia, ma allora sì, qual è il problema, se lo sono meritato, insomma, così. Per cui anzi, io devo dire, prediligo tendenzialmente i documenti ufficiali di chi compie il crimine, perché sono più, paradossalmente più sinceri, anche perché è molto diffusa la percezione di non essere nel torto, non so come dire, cioè di poter commettere qualunque tipo di cose che noi adesso giudichiamo crimini, ma che loro evidentemente non giudicavano così. Una cosa che dico sempre è che non era tanto il crimine efferato la cosa più diffusa, diciamo, era proprio la percezione di essere liberi di agire. Sì, esatto, di poter fare qualunque cosa. Per cui questo lo si vede molto nei libri di memoria, ad esempio, dei soldati italiani, mi riferisco, in cui c'è tutto un stereotipo di italiani bravi, quasi tutti i libri. Rarissimamente qualcuno dice: no, però sono stati commessi anche dei crimini, ovviamente non io, i miei compagni erano tutti bravi. Qualcuno dice: sì, è vero, ho visto quello là che lo faceva, io no. Poi mi è capitato un libro solo su veramente centinaia di libri che ho letto, che ho anche riportato nel mio questa citazione, perché veramente è una citazione unica, e credo che sia l'unico caso che mi è capitato di un soldato che ammette effettivamente di aver commesso lui un crimine. Tra l'altro non è un crimine grave, è un crimine banale, cioè ruba un tappeto a una signora in una casa. Sono i suoi compagni stanno incendiando le case, massacrando la gente, stuprando, e lui descrive tutta questa scena apocalittica e poi dice: io ho rubato un tappeto in una casa. E dopodiché la vecchietta lo insegue disperata, piangendo, urlando, lui gli punta una pistola in faccia e se ne va. E poi scrive: non mi passò neppure per la mente di aver commesso un crimine, una rapina malarmata. Voglio dire, sono passati due scrivi al 64, quindi 20 anni dopo si rende conto di aver commesso un crimine effettivamente. Una rapina malarmata, cioè non è una cosa normale, a casa sua non l'avrebbe mai fatto. Però in quel contesto appunto non gli passò nemmeno per la mente, cioè era assolutamente normale, si poteva fare. pur essendo, come dire, non è un'azione militare rubare un tappeto, no? Quindi un dice ho sparato, è morto qualcuno, vabbè, è un crimine, però sei in guerra. No, rubare un tappeto è proprio un reato, non c'è poco da fare. Non so se ho risposto. La risposta è fondamentale, ti lascio il microfono perché la battuta di volante era per farti dire quanti documenti hai guardato. Ah sì, grazie. Ci devo arrivare. Ne ho tanti. No, vabbè, sì, forse quello che dovrei dire adesso è che non solo ho guardato moltissimi documenti italiani, no, a parte gli scherzi, veramente questo libro è il risultato di, direi, 10 anni per stare stretti, nel senso forse qualcuno di più, di ricerca nelle biblioteche, negli archivi, interviste, no, veramente di tutto. Ho fatto anche altre pubblicazioni precedentemente, quindi, però questa è veramente la summa di almeno 10 anni di ricerca. Non solo utilizzando documenti italiani, ma anche utilizzando documenti jugoslavi, che lo sottolineo perché è un elemento effettivamente piuttosto raro. Dispiace dirlo, però non voglio accusare i colleghi, ovviamente tu non c'entri nulla, però no, capita spesso di trovare, anzi direi la maggior parte dei libri di storia, che sono comunque pochi su questa vicenda, scritti dagli italiani, sono fatti da persone che non sanno la lingua jugoslava naturalmente, e che quindi non utilizzano documenti jugoslavi, cioè raccontano questa storia solo dal punto di vista italiano, che può essere anche una prospettiva, però è una prospettiva, cioè non può essere tutto. Per cui io invece ho cercato di ricostruire anche appunto le scelte fatte dagli jugoslavi in quel contesto, quindi tutta la realtà collaborazionista viene studiata, analizzata attraverso i documenti originali jugoslavi. Sono stato negli archivi di Belgrado, negli archivi di Zagabria, negli archivi montenegrini, insomma, questo mi ha consentito effettivamente di avere una visione più ampia di tutta la questione, ovviamente anche rispetto invece al movimento partigiano, insomma rispetto a tante realtà diverse, e appunto utilizzando anche la documentazione jugoslava. Grazie, che me l'hai fatto dire. Grazie a te che l'hai fatto. C'è, no, però la domanda, scusate. Possiamo passare, se no? Ma intanto, per caso, il campo di concentramento è quello, è Gori Otok? Quello... No. Volevo sapere, ecco, la presenza italiana in Dalmazia, in Istria, tra le due guerre, è una presenza di italiani già presenti da anni, oppure è una presenza... diciamo in seguito all'annessione da parte dell'Italia? E poi, conseguenza di questa domanda, come erano i rapporti in quel periodo tra appunto i dalmati italiani, gli istriani italiani e il resto della popolazione? Cioè c'erano già schermaglie e contrasti con popolazioni interne? Grazie. Innanzitutto dico, visto che tutti stanno andando via, che il mio libro è in vendita. Vabbè, scherzo, però è vero. No, ci sono lì alcune copie, quindi se qualcuno vuole acquistarlo prima di andare via, sono andati via stesso. Però voi che rimanete siete obbligati ad acquistarlo a questo punto. Dunque, per rispondere alla tua domanda, dunque sì, la presenza italiana è di lunghissima durata. Diciamo che è un elemento, soprattutto direi soprattutto in Istria più che in Dalmazia, un elemento interessante è il fatto che c'è una italianizzazione, cioè in qualche modo non forzata. Di solito non so perché la parola italianizzazione segue la parola forzata. Ecco, nel caso istriano dei secoli precedenti non è così, cioè semplicemente l'italiano è un po' la lingua della cultura, la lingua del commercio in quelle terre, per cui chi di fatto va a vivere in città, chi si istruisce, chi diventa commerciante, impara l'italiano e di fatto nel giro di 2-3 generazioni diventa italiano, cioè si sente italiano e diventa italiano. Questo anche per spiegare perché la maggior parte, non la maggior parte fosse eccessiva, ma comunque una percentuale piuttosto ampia di italiani di quelle zone hanno cognomi slavi. Io avevo un compagno di classe, scusate il dettaglio personale, però un compagno di classe di origine istriana, i suoi nonni erano fuggiti dall'Istria immediatamente dopo la guerra, si chiamava Kervatin, che è l'italianizzazione di Croatin, che vuol dire croato, cioè il suo nome era proprio croato. Lui ovviamente parlava malissimo dei croati, che gli avevano rubato la terra, la casa, eccetera. E, no, questo per dire che quindi c'è un fenomeno di italianizzazione che cioè, ha un senso in quel contesto, nel conflitto che poi si sviluppa. Questo elemento è significativo perché dal punto di vista degli slavi, cioè quelli che continuano a sentirsi slavi, sloveni, croati, tutti quegli italiani che si chiamano con cognomi slavi, dal loro punto di vista sono slavi che hanno scelto di italianizzarsi e quindi in qualche modo devono riconvertirsi alla slavità. Dal punto di vista degli italiani invece, gli stessi anche che hanno cognomi slavi si sentono italianissimi perché dicono beh, perché io mi sento italiano. Sono valide entrambe le interpretazioni, dipende da cosa si intende per etnia, per nazionalità, sono concetti molto complessi. Però ecco, detto questo, diciamo più in Dalmazia la presenza italiana era veramente molto minima. C'è una presenza di maggioritaria solo nella città di Zara, che è l'unica località facente parte dell'Italia, cioè un enclave che fa parte dell'Italia tra le due guerre. E quindi a Zara c'è una percentuale maggioritaria di italiani. Tutto il resto della Dalmazia sono veramente poche centinaia di persone, per cui non c'è nemmeno uno scontro nazionale perché è una minoranza talmente minima che non ha un peso, diciamo. In Istria non era tutta italiana? No, cioè nel tra le due guerre, no, era veneziana nei secoli precedenti. Invece nel caso dell'Istria c'è una. L'Istria è invece italiana, cioè fa parte dello Stato fascista. Tra l'altro in quelle zone lì c'è il famoso fascismo di frontiera, per cui il fascismo arriva addirittura prima che nel resto d'Italia, a Trieste, nelle zone limitrofe. È un fascismo molto violento, molto antislavo, connotazioni fortemente antislave, c'è una italianizzazione forzata in quel periodo davvero delle popolazioni slave, e per cui ci sono delle tensioni e la popolazione italiana aumenta nel corso di quegli anni, sia perché molti slavi vengono espulsi o decidono di espatriare e vanno in Jugoslavia, sia perché decine di migliaia di italiani cosiddetti regnicoli, cioè che arrivano dal resto d'Italia, vengono trasferiti lì, amministratori, militari, insegnanti, e sia perché c'è un'italianizzazione, per cui molti di quelli che al censimento precedente, perché poi alla fine si fanno quei censimenti, queste cose, che sono sempre delle armi politiche, i censimenti. E quindi al censimento precedente molti di quelli che si dichiaravano croati e sloveni improvvisamente erano diventati italiani, erano sempre le stesse persone. Però fai il salto di 10 anni e scopri che c'è il doppio della gente italiana, dici cosa è successo? Principalmente quello è il motivo in realtà. Non so se ho risposto più o meno. Signore, vuole? No? Tu vuoi fare ancora una domanda? No, io sono a posto. Guardavo se c'era qualcuno. Siamo sazi di storia, vi ho distrutti, scusatemi. Io voglio un libro. Perdonatemi, i libri sono lì, quanti ne volete? Io voglio un libro. Grazie a tutti. Grazie.